Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Questi politici bisogna attaccarli alla radro e a guidare la radro, sai che ci mettiamo? Ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a nove code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ciao Oscarino, eccoci qua. Sandro, in questo 20 gennaio come andiamo, cari ascoltatori? Tutto bene, tutto bene. C'è no, un tu santo? Sei, tu non sei l'ascoltatore, tu sei il capo. Qua, ah, no, no, esatto, ho risposto per gli ascoltatori. No, però detto questo, allora, oggi è un santo, diciamo, classico, e che anche il senso profondo, tra poco parleremo di uno scambio di battute tra sì, due protagonisti della vita sportiva italiana, e oggi è il santo, uno dei santi iconici della comunità omosessuale, San Sebastiano, perché siccome San Sebastiano è stato sempre rappresentato con forme tornite, con le frecce nel corpo, eccetera, eccetera, San Sebastiano è diventato, malgrado la storia, ovviamente San Sebastiano non gli passava pa capa di diventare, però è diventato questo nella tradizione iconica della comunità, e vedremo che infatti questo tema torna oggi, torna. Però io vorrei dire che, come al solito, la grandezza del calendario liturgico ci pone altri nomi su cui riflettere. Per esempio, oggi è un nome che va per la maggiore tra molti politici italiani, perché è San Neofito. Siccome molti sono degli improvvisati e si capisce, allora San Neofito oggi è il loro santo patrone. E poi, come sempre, c'è la tradizione germanica, oggi San Wulfstano. Ci fosse un Wulfstano. Wulfstano. Wulfstano, che è latinizzazione di Wulfstano. È evidente che è un nome, insomma, di un certo peso in Italia. No, non ci sarà nemmeno uno, però viva San Sebastiano. E naturalmente questo significa che i vertici della CEI sono molto preoccupati, perché hai visto che dice che il Papa ha cancellato alcuni incontri con ma guarda che in realtà a me colpisce molto l'intervista, è vero, ma colpisce molto anche l'intervista del Cardinal Ruini, che su Repubblica mette avanti la classica scusa, sai, quando si dice proprio, lui dice: io non ho nulla contro gli omosessuali, anzi, in giovinezza ho avuto amicizie molto profonde con omosessuali. Come quando dici: non ce l'ho con gli ebrei, ho amici ebrei, non ce l'ho con gli omosessuali, non ce l'ho con i neri, ho amici neri. Io soprattutto non capisco come signor Ruini, dopo tutto quello che è stato presidente della CEI, influentissimo, ecco, ancora siamo a interviste in cui si pronuncia il termine inammissibile, cioè dice: quella legge è inammissibile. Si ha detto: allora, non vorrei che arrivasse al Senato. No, io vorrei invece dei vertici della gerarchia italiana che capissero, dopo tanti decenni, che non devono esprimere giudizi di questo tipo. Loro possono esprimere giudizi del merito e dire quello che preferisco, ma non esprimere giudizi del tipo: questa legge l'Italia non può e non deve averla, perché questa è una roba, è un linguaggio da teocrati pre-1870. Ma tra l'altro, Oscar, di gay appunto si è parlato e tra poco lo sentiamo. Vogliamo però chiamare i nostri ascoltatori sul tema che affronteremo più tardi, un tema molto delicato che intercetta il rapporto tra genitori e figli e figli, tra figli e scuola. Tu hai un bambino piccolo, io sono un po' più, ne ho due un po' più grandicelli, ma non ho ancora in quell'età, diciamo, dai 12 anni, quando, dati Istat, un adolescente su tre è vittima di bullismo, vessazioni. Ragazzi, ieri una ragazza di 12 anni, una ragazzina, ha tentato di togliersi la vita, fortunatamente si è salvata, perché dice: a scuola me le facevano di tutti i colori. E allora ci chiederemo, e vi chiediamo anche, che cosa deve fare un genitore, cosa deve fare la scuola. Il governo propone, hai sentito, il DASPO per i telefonini, cioè ai bulli. Che non, a me non torna come tipo di misura, soprattutto per questa fascia d'età, però. Comunque, 800 24 00 24, se volete chiamarci su questo, avete anche delle esperienze, insomma, di figli vessati o di problematiche di questo tipo. Ma appunto, gli omosessuali. Ieri si sono prepotentemente palesate in una, evidentemente, una partita di calcio, caro Oscar. Napoli-Inter di Coppa Italia, vinta dall'Inter, ma l'allenatore del Napoli ha affrontato Mancini in un modo che Mancini descrive così. Dovete domandare a Sarri, che è un razzista, e gli uomini come lui non possono stare nel calcio. E lui ha iniziato a inviare contro di me, poi a un certo punto urlando, dicendo frocio, finocchio. Caro Oscar, Mancini dice è un razzista, mi dava del frocio e del finocchio. Sì, e vedo anche che naturalmente, siccome insomma, rispetto i commenti del mondo del calcio, pretendono sempre di avere una specie di logica e linguaggio a sé, quindi tutto pare che valga nel mondo dello sport, secondo molti italiani, non secondo me. Io credo che questo tipo di frasario sia inaccettabile. A, sì. B, c'è chi dice no, ma che c'entra poi nel calcio, intorno al campo, gli si può dire di tutto, a chiunque, nessuno si offende. Io non credo, detta proprio fuori dai denti, perché questo poi esprime una cultura di fondo, cioè ecco perché ci abbiamo Tavecchio alla fine. Anche perché molti adesso ci chiedono via SMS e hanno spostato il problema a chiedere, ti assicuro sono molti, ma Roberto Mancini è gay? Perché ha detto questa frase? Se fossi gay sarei peraltro orgoglioso di esserlo, cioè come dire, non c'è nulla di male, cioè non si capisce perché su un campo di calcio mi si debba apostrofare con le parole frocio. E tu come la pensi? Bisogna passare tutto nel calcio? Ma no, o anche ma lì? No. Bisogna dire ragazzi, ma un minimo, se siete classe dirigente del calcio italiano, abbiate uno stile comunicativo. Ma certo, ma la penso così. Adesso Mancini addirittura dice Sarri in Inghilterra non metterebbe più piede su un campo di calcio, che forse è anche vero, perché guarda che in Inghilterra su queste cose non scherzano. Anche perché Sarri non ha smentito, cioè ha detto, ma gli ho detto la prima cosa che mi è passata per la testa, anche questa sì, è abbastanza avrei potuto dirgli di tutto, ma cosa c'entra? Ho chiesto scusa. Esatto. Pensa a questo criterio, se lo adottassimo noi per radio, e dicesse, noi possiamo dire di tutto, poi chiedo scusa. Ha chiesto scusa anche agli omosessuali. Credo che Sarri volesse che finisse un po' come è stato sempre nel calcio, con l'omertà. Cioè queste cose infatti devono rimanere, pensavo finisse lì in campo, no? Nello sfogo, eccetera. Sono d'accordo con te, non è che il calcio è un'isola felice. Alla fine Tavecchio viene eletto e resta lì, questo è. Ma perché è ovvio, perché una mano lava l'altra, ho fatto militare a Cuneo, siamo uomini di mondo. Come, no, l'eterno Totò che nella sua grandezza raffigurava dei tratti, come si vede, permanenti dell'Italia. Ecco, non è che lui fosse così, lui era superiore, però... alla fine ci riconsegna l'amara realtà, perché la mia opinione sarebbe bella, dice, se un allenatore sarà in calcio usa parole simili, viene sospeso una giornata, due giornate, non voglio fare, però gli arriva un provvedimento. Beh, magari arriverà una giornata, due giornate, se qualcosa ha sentito il quarto uomo, l'arbitro, ma una giornata, due giornate, cioè qui Mancini dice non dovrebbe più mettere, è un razzista e non dovrebbe più mettere il piede sul campo, cioè ha fatto delle accuse pesanti. Senti un po', però hai visto che critichiamo spesso Renzi, ma oggi i giornali raccontano che sulla vicenda dei migranti pare che l'Italia, lo dice il Financial Times, stia portando a casa una mezza vittoria, pare che vogliono cambiare il trattato di Dublino. Facciamo il mio mestiere così. Vedo che sui giornali italiani la campagna lanciata di distrazione di massa dai problemi dell'Italia sull'Europa ottiene un grande effetto, perché ci sono dei giornali che a me impressionano oggi per i toni che usano, cioè delle gazzette di guerra. Se questo dovesse essere il segno, penso che prima della campagna elettorale dichiareremo guerra all'Austria e alla Germania. Ma detto tutto questo, quindi c'è un grande vivo entusiasmo dell'Italia verso questa linea intrapresa da Palazzo Chigi. Se poi vai a vedere, c'è scritto che a marzo forse cambia il trattato di Dublino. Benissimo, ne prendiamo atto, sarebbe una cosa utile, giustissima per l'Italia soprattutto, giustissima per tutti, eccetera. Vediamo, perché questo io lo vedo come un annuncio, perché poi se grattando sotto la vernice scopro che forse a marzo, siamo a gennaio, vediamo. Intanto però c'è questo grande pugno in testa alla diplomazia italiana che non si è adeguata ai toni di guerra, e quindi l'ambasciatore di Bruxelles viene sostituito con un non ambasciatore. Sì. Per fortuna però Carlo Calenda è una persona secondo me tra i migliori del governo, straordinaria, perché su cioè, perché dici pugno? Perché Renzi ha tolto l'ambasciatore per mettere il vice ministro, quindi uno più vicino. Beh, Repubblica per esempio c'è una colonna, no, che ospita le reazioni. Diciamo, non ci sono nomi e cognomi per evitare scontri con il governo da parte dei diplomatici italiani, ma è evidente che è un pugno in testa alla diplomazia italiana, che non ha saputo adeguarsi ai toni accesi nei confronti di Bruxelles e dell'Europa. E anzi, la cosa che gira è che, ma come Sannino, l'ex ambasciatore sostituito, veniva, aveva lavorato alla Commissione Europea ed era evidente da come si comportava che voleva tornare a lavorare lì. Cioè un traditore, una quinta colonna degli eurocrati unni sotto i cui talloni l'Italia geme. Perché naturalmente la colpa dei nostri problemi è loro e non nostra. Loro, ecco, io temo che ci sia qualche eccesso in questa rappresentazione, però... È vero che secondo i giornali italiani, molti di loro, non tutti, però abbiamo vinto già Dublino, vedere per credere, vinciamo sulla quota alla Turchia, vedere per credere anche lì. Il Messaggero dice che praticamente avremo nuove regole di flessibilità, ma vedremo meno, avremo la bad bank, a Ferragosto finalmente pioverà e non ci sarà siccità perché i tedeschi ci faranno piovere, perché noi li abbiamo piegati e cose di questo genere. Tra l'altro devo dire, Oscar, ci sono tanti messaggi. Su anche il tema Sarri, Mancini, molti sono pro Mancini, alcuni critici, uno ti fa i complimenti, azzeccatissimo il paragone su Tavecchio, no? Per questo c'è Tavecchio. Però ci chiedono e ti chiedono, da un liberale come Oscar, come il Cardinal Ruini non ha libertà di parola, non ha libertà, che ha libertà di parola, ma siccome i rapporti, c'è anche come libertà è noto, di critica, però. Storici con la confessione cattolica e con la Chiesa soprattutto, sono, a differenza di altre confessioni, vincolate da un concordato in cambio del quale c'è un regime di sostegno finanziario un po' diverso rispetto a quello che abbiamo anche per le altre comunità con cui c'è una convenzione, perché nel caso del rapporto con la CEI c'è una commissione paritetica, ne abbiamo già parlato di che cosa questo significa per il miliardo che ogni anno i contribuenti italiani danno e per tante altre ragioni, gli insegnanti di religione col placido del vescovo e così via. Siccome c'è un rapporto delimitato anche da impegni e trattati, secondo me bisognerebbe usare un linguaggio più consono. Pienissima libertà della gerarchia di criticare tutto quello che non va in Italia, altro conto è dire questa non deve diventare una legge, perché nessun politico italiano si permetterebbe di dire il Papa non deve fare un motu proprio su questo o quell'argomento, perché anzi, c'è un rapporto tra stati sovrani e siccome ha pesato molto nella storia italiana, non devo ricordarlo a chi è in ascolto, il ruolo delle gerarchie, ecco, pensavamo nei decenni che ci fosse piena libertà senza dire... diktat, ma non ingerenza, non expedit non si può più fare. Soprattutto il dire auspicherei che una legge del genere non approdi al Senato. Questa legge è inammissibile, com'è inammissibile? Tu puoi criticarla, è sbagliata, è ingiusta, rifletteteci, ma inammissibile detto da gerarchia ecclesiastica non funziona. Ma sai che invece molti dicono, ma Mancini, ci scrivono, ma Mancini che fa? 5 anni che corre dalla maestra a dire... No, Mancini secondo me, oppure cosa c'entra il razzismo? Ma vuole rivelare a tutti che cosa c'entra il razzismo? Però se questa è la domanda inizio a preoccuparmi. No, perché dico, gli omosessuali non sono una razza, qualcuno ci scrive, però che c'entra apostrofare uno per la sua tendenza sessuale, che peraltro non è non dovrebbe entrare in un discorso, insomma. No, punto. Non per essere politicamente corretti. No. Perché è un classico, ripeto, vedi le frasi di Tavecchio, è un classico riflesso condizionato di una cultura macista, quella di dire cos'erano le cacciatrici lesbiche e così via, cioè questo retaggio un po' limaccioso che ricorda ho fatto il militare a Cuneo. Però insomma sono tante le persone che ci chiamano sul tema che approfondiremo tra poco, 800 24 0024, quello del bullismo, insomma dei rapporti anche tra scuola, genitori, educatori, il rapporto con la tecnologia. Valentina ci chiama da Napoli, per esempio. Valentina è tifosa, tra l'altro, sì, sono tifosa, guardavo la partita, ma non posso intervenire sul tema Mancini. Non posso, perché avrà un'idea. Perché non ha sentito più che altro le frasi e non avrà un'opinione. O perché tutto quello che fa l'allenatore del Napoli, siccome siamo tifosi del Napoli, non si può criticare. Io pure no, mi stavo assolutamente, perché credo che le tensioni a bordo campo siano sempre un po' esasperate. Portarle fuori, insomma, mi sembra eccessivo. Ha sbagliato Mancini. Vabbè, però ci dica sul Valentina, scusi un secondo. Sono d'accordo con lei, però vede... Se, come la vita civile ci insegna nel tempo a non comportarci più da barbari quando ci sono le tensioni e quindi a non avere il diritto di spaccare la testa alle mogli eccetera eccetera, anche per lo sport dovrebbe valere così, o è un luogo franco? Anche perché gli avesse detto, adesso non è che voglio fare il campionato, ma gli avesse detto coglione, non è che Mancini sarebbe andato a gridare, mi ha urlato coglione, è che il punto è che gli ha detto frocio. Un luogo franco assolutamente no, lo sport ha una valenza educativa e questo comunque deve rimanere, comunque era in prima serata sulla, sulla televisione nazionale, è solo che insomma poi portarlo fuori, magari addirittura prospettare delle... delle settimane di espulsione per Sarri, sì. Ecco, mi sembra un po' approfittare della situazione per volgere a proprio favore. Sarà Valentina, diciamo, ma allora a bordo campo continueranno a dire rotto in culo Frocio, e a me questa roba non piace. Viva per me, poi il calcio è bello che Valentina ci aveva, ci aveva sì, chiamato. Siamo travolti dal... ma sa, da Napoli è chiaro che voglio dire. Perdono Valentina, perdono. Dica, no, sul tema del cyberbullismo volevo fare una riflessione molto semplice, che è anche frutto della mia esperienza, un figlio di 12 anni. I genitori sono molto poco preparati ad affrontare questa problematica, ma per preparati intendo non tanto come educatori, proprio scarsi nelle competenze necessarie a seguire i figli. Non sono proprio in grado di monitorare la loro vita digitale, cioè tutto quello che c'è dietro, non so, il caricare una foto, controllare una cache, mettere un programmino per monitorare quello che succede, ovviamente stiamo parlando di minori, sì, e certo. Di minori anche insomma molto piccolini, 10, 11, 12 anni, quindi e i genitori sono ignoranti tecnologicamente, diciamo così. Ignoranti tecnologicamente nonostante dispongano di dispositivi di ultima generazione, e questo è proprio un problema secondo me proprio generazionale, cioè l'uso ignorante della tecnologia. Ah beh, chiaro, è chiaro che sono... il cyberbullismo a questo punto è un fenomeno che può solo dilagare. Sì, è chiaro che sono molto più avanti di noi su questo, Oscar, non c'è dubbio. Ah no, io sono senza parole già di fronte, lo racconto sempre, non lo faccio per microfono perché molti non ci crederebbero, sono avantissimo, con figlio di un anno io sono stupito di quello che fa con l'iPhone, che io non gli avrei dato, mia moglie gli ha dato, e io rimango senza parola. Visto, cioè ho capito, tutto. Gli ha dato nel senso in mano così, sì, non mano, credo che lui... risponda a un numero tuo figlio, vogliamo provare a fare un numero di telefono. Beh, dunque, aspetta un secondo, perché lui tra tutte le icone è già perfettamente in grado di riconoscere quella Google, su cui è perfettamente in grado di ripetere serialmente dove c'è la raccolta delle canzoni e di scegliere, chiudendo e aprendo, quelle che gli piacciono e sospendendo l'ascolto, a 12 mesi, ecco. Io sono... terrorizzato. Sei terrorizzato. Infatti non glielo avrei dato, io lo penso un po' così, però la cioè, critica alla moglie non è una critica, no, io no, capisco no. Che su questo bisogna non sempre si può, non so come fate voi in ascolto, come fai tu, è un dialogo sempre a due su cosa si può fare ai figli, sì. No? Altre volte, alcune volte bisogna accettare dicendo ma può essere che hanno ragione tu, vediamo. E sul rapporto con la tecnologia è ovviamente il rapporto più delicato, perché il bullismo c'è sempre stato, gli sfottò, le prese in giro a scuola, anche quando andavamo noi, caro Oscar, però adesso la tecnologia ovviamente ha proprio è che appunto se una volta questi, ti si fa terra bruciata sui social, tu vai a casa e c'hai nel silenzio la tua cameretta il mondo intero che ti continua a bombardare, non è solo lo sfottò o la mano alzata, perché nelle scuole che ho frequentato io a Torino, la barriera operaia, c'era anche molta violenza, bisogna dire la verità, c'erano i ripetenti, c'era e quindi quello però c'è sempre stato, sì, diciamo, la violenza è verso chi aveva difetti fisici, insomma, l'ha presa in giro. Il problema è che sui social diventa una cortina alla quale il bambino sensibile non può sfuggire. Ma guarda, ne parleremo tra poco con un magistrato, Fabio Roia, e con un signore, Paolo Picchio. Paolo Picchio porta dentro di sé il dolore di una figlia, Carolina, che si è tolta la vita quando aveva 14 anni perché è presa in giro, perché insomma. Io lo dico per primo, a me non è chiaro come genitore qual è la soglia oltre la quale io devo creare un problema a un dirigente scolastico, o oltre la quale addirittura devo rivolgermi, devo pensare che sia un reato, perché a me non è chiaro percepire qual è con certezza la soglia, quindi mi troverei per primo in imbarazzo a capire che cosa devo fare. Esatto, noi lo chiederemo a Fabio Roia, ma tra poco state con noi e chiamateci perché rientriamo su questo tema. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Eccoci qui, caro Oscar. Allora, ci ha chiamato anche Nanni da Vibo Valentia. Buongiorno, Nanni. Cari colleghi, buongiorno, buona mattinata anche a voi. Anche lei è cardinale. No, sto scherzando. Caro Giannino, io... anch'io lavoro in una radio, anch'io mi muovo un po' come voi. Che bello, che bello. Dici, Nanni. Il problema è un altro. Noi tutti i genitori ci dobbiamo interrogare anche su una questione, che quando i figli hanno un disagio non parlano più con noi. Sfogano le loro ansietà, i loro problemi su internet. Perché nelle famiglie non si parla più. E questo è il dramma. Cosa che non accadeva ai tempi nostri. Io siamo sicuri? No, io ascolto sempre imparando, Nanni, ma siamo sicuri? Cioè, ai tempi miei, devo dire la verità, parole con mio padre, zero. Ma zero totale, proprio. Mm. Con mia madre, ordini a cui dovevo obbedire. Confronti, non ne ho memoria, sarò, non credo di essere un'eccezione, non ne ho memoria. Quindi, ma davvero si parlava prima? Boh. Ma a me succedeva, io ho 54 anni, a casa mia c'era un dialogo, c'è sempre stato. E un'altra cosa che se voi citate caso emerge, che quando accadono queste cose, nelle scuole la risposta che si dà, non ci eravamo accorti di nulla, tutti cadono dalle nuvole, questa è una costante che noi troviamo. Beh, ma a volte succede veramente tutto sui social network, tutti in circuiti che non sono così visibili, no Oscar, non sono almeno apparentemente così manifesti. Prendiamo dopo che appunto questa ragazzina, che per fortuna appunto è viva, però poi adesso facendo le indagini, si va a vedere, ha cercato per lungo tempo tecniche per levarsi la vita, diventa poi anche un... No, ma tra l'altro ne vogliamo parlare, salutiamo un magistrato, Fabio Roia, buongiorno dottor Roia, buongiorno a tutti. È una persona alla quale credo, Oscar, sarà d'accordo, dobbiamo approcciarci intanto con rispetto del dolore per aver perso una figlia. Paolo Picchio, buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Paolo Picchio è il papà di Carolina, che si è tolta la vita quanti anni fa? 3 anni fa ormai? Sì. Dopo essere stata presa in giro per un video che girava su Facebook, alla fine Carolina non ha retto evidentemente questa situazione. Senta, Picchio, sa che molti messaggi arrivano sull'educazione dei genitori, dovremmo educare di più i genitori a parlare, ma davvero lei come la vede? Il problema nasce intanto nelle famiglie? Certamente l'educazione è fondamentale, anche perché io ritengo che oggi, non dico che i genitori sono evaporati, ma il rapporto familiare è reso più complesso, più difficile, ma è la stessa società che l'ha imposto, perché sentivo prima, io nel 68 all'università mi ricordo che il vietato fumare c'era scritto vietato vietare, cioè si ribaltava quello che era la gerarchia e l'ordine, cioè precedente, per cui oggi anche i genitori, soprattutto davanti a questi nuovi strumenti, non sono pronti, non sono preparati. Cioè gli strumenti sono i social, Facebook, ecco, Twitter. A capire, anche perché i figli sono diventati, diciamo, nel bene e nel male, più autonomi, più lei vede una volta si entrava in classe e il professore entrava e i ragazzi si alzavano in piedi. Oggi queste cose non succedono più. Sì. Il rapporto è cambiato. Certo, non si può tornare indietro, ma forse è il momento di darsi delle regole. Sì. Però lei le regole le ha proposte anche, per esempio, per i cosiddetti giganti della rete, cioè vuole e appoggia una proposta di legge che c'è per fare restrizioni, non so, ai grandi social network, nel mettere... Certamente. È un percorso però molto complicato, lei lo sa. Ma sa, il problema è questo, come tutte le cose poi l'economia è quello che poi muove tutto e purtroppo muove nel bene e nel male. Una volta, quando lei pensi gli SMS venivano a pagamento e internet era a pagamento, il rapporto e queste comunicazioni non erano così continue. Oggi, ma mica possiamo rimpiangere quello però? Mica no, possiamo no. Rimpiangere, ecco, no? No, certo, non possiamo rimpiangere, però questo ha facilitato da una parte il vantaggio della diffusione enorme di questi social e dall'altra parte però ha permesso l'inserimento di tutta una serie di persone e di attori nel circuito che senza controllo. Però ecco, vi faccio un'osservazione, siccome nell'esperienza vedo i figli miei amici, ma ripeto, non 13-14 anni. 7, 8, 9 anni. Cioè, sì, sì, oggi, certo. Poniamo che i social mettessero dei vincoli d'età. Come paese del mondo, a Facebook, esatto, c'è, no, per esempio, però si aggira però, facilmente. Parliamoci chiaramente: oggi un ragazzino e una ragazzina a fare un fake e ad aggirarle ci mette meno di zero. Cioè, probabilmente alcuni, molti forse, dei genitori non sarebbero capaci, loro sì. Allora, il mio dilemma diventa questo. Quindi io credo poco nei vincoli dall'alto, ma mi faccio una domanda a cui non so dare una risposta e chiedo quindi, con grande rispetto al nostro ospite, di darmi un'indicazione. Cosa bisogna fare? Bisogna controllare occhiutamente, senza che i figli e la figlia si rendano conto, il loro telefonino, il loro computer, eccetera, eccetera, cosa di fronte alla quale io provo un enorme imbarazzo. Forse però dovrei però convincermi che bisogna farlo. È una soluzione che molti fanno. È questo che bisogna fare? Parte sì, perché il figlio, l'ultimo a cui farebbe ricorso nel caso di intimidazioni o cose è il genitore, soprattutto su questi social, perché la prima cosa che il genitore fa è togliere il telefonino oppure sgridare, e quindi ben difficilmente lo informerebbe, sarebbe l'ultima persona che viene informata. D'altra parte una certa diciamo possibilità c'è, oggi ci sono delle app dove attraverso è possibile controllare quello, certo. Se, soprattutto esatto, se va a controllare anche dei siti, se certo, va se ha delle interazioni a rischio. Certo, a un certo punto preferisco invadere la privacy di mia figlia e tenermela qua piuttosto che non invaderla e lasciare che subisce delle vessazioni. Però Oscar, tu prima non so, dottor Roia ci potrà aiutare, avevi dei dubbi sulla questione di dove si può configurare. Qual è la soglia oltre la quale un genitore si deve porre il problema? No, qui ci sono gli estremi di un reato. Forse non basta parlare col dirigente scolastico, forse è meglio imboccare la tutela giudiziaria legale. Qual è questa frontiera? Io non saprei rispondere. Io ritengo che Roia. Sì. Dunque, la tutela legale ne abbiamo molte di tutele legali, perché leggevo ieri che stanno studiando una norma specifica sul cosiddetto bullismo. Allora, innanzitutto il bullismo, secondo me già il termine è troppo dolce, edulcorato, perché non rende l'idea che siamo in presenza di veri e propri crimini. Io molte volte vengo invitato a delle scuole primarie o comunque secondarie, ma comunque licei o anche addirittura scuole medie, dove spiegando ai ragazzi alcune cose, loro proprio non sanno che quello che commettono non è un atto di bullismo, cioè una cosa sociologica, ma è un vero e proprio crimine. Se noi iniziassimo a dire ai ragazzi che, per esempio, se due persone smanettano da un punto di vista sessuale, compiono atti sessuali su una ragazzina, commettono il reato di violenza sessuale di gruppo tradotto da 6 a 12 anni di carcere, oppure se si avvicinano a un ragazzino e si fanno consegnare spingendolo un giubbotto, la paghetta, non è un atto di bullismo ma è una rapina aggravata, tradotto da 4 anni 6 mesi a 20 anni, forse inizieremo a far capire loro, cosa che assolutamente non sanno, che questi che noi licenziamo, abbiamo licenziato secondo me in maniera anche sbagliata da un punto di vista linguistico, come atti di bullismo, se li commettesse un adulto risponderebbe di queste norme, con queste prospettive però, di pena molto importanti. Faccio un esempio concreto, davvero, al fine di chiarire a chi è a casa, ma in primis a me stesso. Per esempio, se come capita le ragazzine si fanno dei selfie un po' osè, primo, secondo, a quel punto suoi compagni di scuola, di classe, a fini magari per sottolineare, sfotterla, eccetera, eccetera, li fanno circolare. Domanda, se io sono il padre e a quel punto controllando capisco che questa cosa è in atto, c'è qualcosa che posso, debbo fare verso chi esercita la potestà parentale nei confronti dei ragazzini / ragazzini, quindi stiamo parlando dei minorenni, che fanno girare questa cosa? Io a questa domanda direi no. Cosa mi dice il magistrato? Io le direi sì, perché c'è una norma, Codice Civile 2048, fra l'altro c'è una bellissima sentenza del Tribunale di Milano proprio recente, che impone da un punto di vista civile, quindi del risarcimento danni, una responsabilità dei genitori per l'educazione dei figli. In questo caso i genitori sono stati condannati a risarcire dei danni per delle cosiddette condotte di bullismo poste in essere dei figli. Dai figli. In altre parole, i genitori devono provare che quell'atto commesso dal figlio è un qualcosa che esula completamente dal loro programma educativo, il che è una sorta di probatio diabolica, diciamo noi, con un latinismo. E questa la norma c'è, il problema è che nessuno le conosce, perché non so se gli altri ospiti hanno avuto occasione, se voi andate a parlare nelle scuole, quando io dico queste cose sento un silenzio raggelante, come dire, perché come si crede dire, che sia tutto uno scherzo, cioè il ragazzino che passa la dose di hash per 5 euro commette il reato di spaccio di stupefacenti, e molte volte anche il corpo insegnante, che ha un corpo, come dire, io capisco le frustrazioni che possono derivare da una situazione amministrativa retributiva non felice nel nostro paese, però hanno un dovere molto importante, innanzitutto quello di cogliere eventuali segnali di sofferenza dei ragazzi, per cui se c'è un segnale di sofferenza i primi percettori sono o i genitori o comunque gli insegnanti, e questo molte volte non viene attivato. Comunque una cosa mi sembra chiara nel senso che almeno a me pare proprio palese, patente, manifesta, quello che ci dice Roya non è chiaro nella gran massa degli operatori addirittura della scuola, prima che dei genitori, un quadro di regole a cui fare appellarsi e fare riferimento rigoroso nei comportamenti, pretendendo il comportamento degli altri. Secondo me questa dovrebbe essere una grande campagna informativa, davvero bisognerebbe che la facessimo noi dal basso, impegnandoci nell'informazione. Io vorrei, me, vorrei anche capire Roya se quando si legge il DASPO al telefonino o il vietare a un bullo, lo definiamo così anche se ci ha spiegato bene che in realtà bisognerebbe utilizzare la parola potenziale criminale, l'accesso ai mezzi tecnologici, la vede una cosa fattibile? A me sembra, guardi, un po' difficile. Mi sembra un po' il modo di lavarsi la coscienza da parte della politica, perché io, secondo me, qui il fronte di intervento è quello della prevenzione primaria, cioè quelle cose che ci stiamo dicendo noi bisognerebbe dirle a livello scolastico, introducendo delle ore obbligatorie. Quindi mi rendo conto che però questa prevenzione primaria i frutti si potranno cogliere fra 5-10 anni. Infatti. Però il continuare a vietare, a penalizzare, a parte che nel nostro codice penale ci sono già delle norme, sentivo ieri che vogliono introdurre il reato di stalking informatico, ma c'è già. Il reato di stalking c'è già, nel 2013 io è stata infatti sono contrario, Roy, aggravata. A questa tipizzazione dei delitti che serve alla politica ogni volta, addirò ho dato una risposta, ci sono le norme generali. È un modo, come dire, di lavarsi la coscienza di un problema che è molto complesso, di dire c'è una norma penale e io deleghiamo alla magistratura penale, quindi alla repressione, la risoluzione di un problema che non trova solo lì le soluzioni, fermo restando che adesso abbiamo già le norme. Io vorrei chiedere, per concludere, al dottor Paolo Picchio, che ricordiamo il papà di Carolina che si è tolta la vita 3 anni fa per queste vessazioni, so che dai genitori, siccome ci sarà un processo che inizierà credo ad aprile, dai genitori delle persone sotto processo lei credo che non abbia avuto mai nessun tipo di solidarietà, neanche di telefonate, niente? Ma il fatto è questo, fondamentale, io devo fare i complimenti alla magistratura, in particolare alla procura dei minori di Torino, perché questi ragazzi li ha indagati su norme che oggi esistono nel codice penale, e c'è la possibilità, attraverso tutti gli atti che hanno fatto di cyberbullismo, bullismo, di essere puniti. Quindi oggi la norma e le norme ci sono. C'è l'articolo 30 della Costituzione che dice è dovere dei genitori educare i figli. L'articolo 147 anche del Codice Civile lo dice, no? Ambedue i coniugi hanno l'obbligo di educare. Cioè, quindi, da una parte, i genitori stessi devono sapere che se il figlio commette un reato e il figlio ha meno di 16 anni o meno di 14 addirittura, sono loro corresponsabili. I genitori devono messaggio pagare. Chiaro a chi ci ha ascoltato. Caro grazie. Oscar, grazie a tutti e ci ritroviamo domani, ovviamente. E ricordatevi che però nel frattempo in Parlamento a difendere Carraia, il capo di un servizio segreto, ci va la Boschi.